Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il nostro paese si sta lentamente decolorando, ovvero sia vedete che il rosso intenso comincia a trasformarsi progressivamente in arancione e questo riflette in qualche modo il fatto che un po' in maniera, come vedete, omogenea un po' in tutti i paesi europei l'epidemia sta cominciando lentamente a decrescere. Quindi l'Italia si sta progressivamente decolorando, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, lo ha assicurato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, dice un po' come sta succedendo nel resto dell'Unione Europea, però bisogna sempre naturalmente mantenere le restrizioni, le misure di prevenzione, di contenimento, no? Non per niente ieri il presidente del Consiglio Conte ha emanato il nuovo DPCM che pure molte critiche ha ricevuto, in particolare dalle regioni del nord, ma anche all'interno dello stesso governo, parte del PD, quindi della maggioranza, insomma, che avrebbe voluto un po' più di libertà di spostamento durante le feste natalizie. Torneremo sul nuovo DPCM perché ci sono alcuni aspetti, chiaramente appena stato varato ieri sera, che non sono ancora molto chiari. Ci sarà il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, il dottor Laquaniti, quindi se avete delle domande da fare, molto sintetiche, al numero per i WhatsApp 349-238-6666, 349-238-6666, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Poi parleremo di molte altre cose, tra cui questa inchiesta sull'esame farsa d'italiano del calciatore Suarez, perché stanno venendo fuori vari elementi, insomma veramente la questione, la vicenda si ingrossa sempre di più e appare sempre più imbarazzante. Direi che prima, naturalmente come sempre, di approfondire i temi, allacciate le cinture e si parte con la sintesi della giornata. L'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Italia: sono 24.009 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, le vittime sono 814. Le regioni e i colori: solo l'Abruzzo resta in zona rossa, 5 regioni tornano gialle, ma non la Lombardia e il Piemonte. L'allarme del presidente lombardo Fontana: c'è il rischio di una fuga verso il sud prima di Natale. Automobilisti bloccati dalla neve sulla A7, in soccorso la Protezione Civile con cibo e coperte, si annuncia un fine settimana di neve e maltempo. L'allarme del Censis: l'Italia è una ruota quadrata che non gira, e Conte sottolinea, ora dobbiamo ripartire anche sul fronte economico. Il caso Suarez: per l'esame di italiano del calciatore, indagati paratici e illegali della Juventus, nelle carte spunta il nome della ministra De Micheli. Napoli: lo stadio San Paolo intitolato in tempi record a Maradona. Partiamo quindi, come sempre, dai dati aggiornati sull'andamento del coronavirus in Italia. Diciamo che sono 24.009 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, le vittime sono 814. Oggi c'è stata la consueta conferenza stampa per illustrare i dati del monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. E sentiamo allora il presidente Brusaferro. In quasi tutte le regioni questo valore di incidenza sta decrescendo. Ci sono ancora alcune regioni però che hanno dei dati crescenti, anche se in maniera contenuta, però mostrano che comunque ci illustra che il nostro paese ha ancora, vedete, i valori piuttosto elevati di incidenza e quindi è un trend che si conferma decrescente, ma è anche un trend ancora di dove l'incidenza è particolarmente significativa, il che vuol dire che il numero di nuovi casi quotidiani è ancora importante. Dobbiamo porre la massima attenzione a tutte le misure, a livello regionale e subregionale porre massima attenzione anche laddove dovessero essere dei focolai o delle situazioni dove c'è un'aumentata locale trasmissione, occorre intervenire tempestivamente e adottare tutte le misure di contenimento, e anche laddove si può pensare di allentare qualche misura deve essere fatto monitorizzando con grande attenzione, perché abbiamo dei segnali positivi che testimoniano la bontà delle misure adottate, ma siamo in una fase iniziale di questo elemento e dobbiamo quindi rafforzare questa positività e ricondurla in termini di RT in tutto il paese sotto l'1 e in termini di numero di nuovi casi, quindi di incidenza, a livelli più sostenibili e più sicuri nel nostro sistema. E oggi il ministro della Salute Speranza ha firmato varie ordinanze che determinano passaggi di colore di diverse zone a rischio per le varie regioni. Allora, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano dalla zona arancione a quella gialla, mentre passano dalla zona rossa a quella arancione Campania, Toscana, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. L'Abruzzo è l'unica regione che resta in zona rossa, mentre vengono rinnovate per ora le misure restrittive già vigenti relative appunto all'Abruzzo, alla Basilicata, alla Calabria, Lombardia e Piemonte. Non mancano le polemiche anche questa volta con le regioni, il tema però più discusso sono appunto le regole del DPCM relative a Natale, col presidente della Lombardia Fontana che paventa una fuga dalle regioni del nord prima di Natale per evitare il semi-lockdown. Non mancano polemiche e allarmi sulla stretta di Natale messa in atto dal governo Conte. La chiusura dei comuni il 25 e il 26 potrebbe tramutarsi nei giorni precedenti in una nuova pericolosa fuga dal nord, ne è convinto, parlando di regola inaccettabile, il governatore lombardo Fontana. Il rischio è quello, bisognerà fare in modo, proprio perché in questo caso lo possiamo prevedere, che ci sia particolare attenzione, bisognerà parlare con le prefetture, le forze dell'ordine per evitare che in quell'occasione si creino più danni che lasciare la libertà a tutti di circolare. Chiusura dei comuni nei giorni clou delle festività, decise dal governo, che per il presidente della regione Liguria Giovanni Toti mortificano i sacrifici dei cittadini. Durissimo riguardo il governatore della Calabria Nino Spirlì, che parla di atto quasi criminale. Non si arrende il presidente del Veneto Luca Zaia, per il quale è ancora possibile per l'esecutivo, dopo aver sentito le regioni, metter mano al DPCM. Sentiamolo. Ci sarà pure un incontro, parleremo e lì vedremo di trovare una soluzione. Stiamo parlando del 25, per cui abbiamo margine per convincerli a modificare se vogliono. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La fase di crisi, di grave crisi, richiede risposte concrete per uscire dall'emergenza e per avviare la costruzione di solide prospettive per il futuro, dice il Presidente della Repubblica Mattarella. Ci attendono ancora mesi difficili, sono le parole del Presidente del Consiglio Conte, che aggiunge dobbiamo ripartire anche sul piano economico, parole che arrivano nel pieno della bufera nelle fila del 5 Stelle sul MES. Un nuovo lockdown sarebbe stato un colpo letale all'economia. Ora, dice il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dobbiamo scrivere un'altra pagina, quella del futuro e della ripartenza. La manovra, spiega, contiene acceleratori di sviluppo e guarda anche all'Europa e al Recovery Fund. Voglio rassicurare tutti, dietro la nebbia delle polemiche, dei distinguo pur legittimi, c'è un percorso veloce e cristallino per valorizzare al massimo quella che per l'Italia è un'occasione storica. 209 miliardi che devono cambiare le nostre vite. Le risorse messe in campo da Bruxelles agitano la maggioranza. Mercoledì il Parlamento dovrà votare sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità osteggiato dal Movimento 5 Stelle. Il MES è uno strumento inadatto e inutile, scrive Beppe Grillo sul suo blog, entrando così a gamba tesa nella discussione in seno al Movimento dopo che 58 parlamentari hanno inviato una lettera ai vertici contro il meccanismo europeo di stabilità e la possibilità di usare fondi per le spese sanitarie. Luigi Di Maio prova a gettare acqua sul fuoco, lavoro per l'unità della maggioranza, assicura, ma il PD avverte, il MES è uno strumento che si può decidere di utilizzare o meno, dice Graziano Del Rio. Il voto sulla riforma per il PD, puntualizza, è ineludibile. Alla ripartenza e al Recovery Fund guarda anche Confindustria. Una rinascita per l'Italia, dice il presidente Carlo Bonomi, non è solo possibile ma necessaria. Restano poche settimane, ma commettere un errore su questo sarebbe gravissimo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il sistema Italia è una ruota quadrata che non gira, racconta il rapporto Censis. Scomparsi 500.000 posti di lavoro e anche la DAD, la didattica a distanza, aumenta l'esclusione sociale. Un paese in difficoltà, spaventato e impoverito, ma anche disposto ad accettare regole dure e rinunciare alla propria libertà. Meglio sudditi che morti è la filosofia che emerge dal 54esimo rapporto del Censis. Il 57,8% degli italiani è disposto infatti a rinunciare alle libertà personali in nome della tutela della salute collettiva, delegando senza problemi le decisioni su quando e come uscire di casa. Il 77% chiede pene severe per chi non indossa le mascherine di protezione delle vie respiratorie e quasi l'80% degli italiani si dice inoltre a favore della stretta in vista delle prossime festività. Ritratto di un paese che è però stanco, segnato da un primitivo spartiacque tra chi fa fatica a vivere e chi è invece diventato più ricco. È il lavoro la chiave della salvezza per l'86% degli italiani. La pioggia dei sussidi, 26 miliardi di euro, non è riuscita a rimettere in pareggio una situazione disastrosa che solo nel terzo trimestre di quest'anno ha portato portato via il lavoro a quasi 500.000 di giovani e donne, le categorie più fragili del mercato del lavoro, ribadisce il Censis. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E domani col Sole 24 Ore in edicola e intanto 4 pagine speciali con tutte le novità per le scadenze e le modalità di calcolo per le perdite per il decreto Ristori Quater. Riaprono alle visite intanto le RSA, chiuse alle visite dei parenti, test antigenici obbligatori per i familiari e stanze dell'abbraccio per superare la solitudine e l'isolamento degli anziani. Sono queste le raccomandazioni contenute in una circolare del Ministero della Salute. Intanto prosegue l'inchiesta bergamasca sulle morti per Covid. In questa inchiesta entrano la partita Atalanta-Valencia del 19 febbraio a San Siro e quella di Eccellenza Albino Codogno del 9 febbraio. La Procura di Bergamo, come spiegato dal procuratore Antonio Chiappani e dalla giunta Maria Cristina Rota, ha acquisito l'elenco dei tifosi per ricostruire chi era allo stadio, a bordo di quali mezzi sono arrivati, da dove provenivano, mettendo a confronto i dati con quanti casi ci sono stati nelle località da cui venivano i tifosi, questo per valutare l'esistenza di altri focolai oltre a quello dell'ospedale di Alzano Lombardo. E siamo al caso Suarez. Erano stati preventivamente comunicati al calciatore Luis Suarez i contenuti della prova farsa per la conoscenza della lingua italiana sostenuta all'Università per Stranieri di Perugia, giungendo a predeterminare l'esito e il punteggio dell'esame per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus per conseguire un positivo ritorno d'immagine tanto personale quanto per l'università. La dirigenza della Juventus in particolare si sarebbe attivata per accelerare le procedure. Questo emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza e della Procura, ma poi torneremo nel corso di questa puntata su questa inchiesta. Parliamo adesso di maltempo in Liguria. La forte nevicata sulla Sette ha creato una situazione di emergenza. Sentiamo allora anche qui cosa succede. Sotto un'abbondante nevicata sulle autostrade tra Piemonte, Lombardia e Liguria è un venerdì nero. Sin dal mattino tratti chiusi a singhiozzo, automobilisti imprigionati nell'ingorgo e soccorsi dopo ore dalla protezione civile. Un ingorgo che dai tratti appenninici della 7 e della 26 in fretta ha fagocitato l'intero nodo di Genova, con ripercussioni anche su quello di Milano, dove si sommano i disagi sempre per neve della 4, della 8 e della 9. Migliaia i tir bloccati, accuse ad autostrade per la mancanza di interventi preventivi. Giuseppe Tagnocchetti, Trasporto Unito. Centinaia di camion che sono rimasti per strada questa mattina senza poter consegnare la merce, extra costi che sono enormi, e tutto questo per un'incapacità sostanziale di prevenire il problema che già da giorni si sapeva che si sarebbe poi realizzato. L'ondata di maltempo interessa e interesserà per giorni buona parte della penisola. Vento, pioggia e neve, allerta in varie regioni, rossa in Veneto, Friuli Venezia Giulia nella provincia autonoma di Bolzano, a Venezia acqua alta in laguna, entra in azione il Mose. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E maltempo annunciato anche nelle prossime ore, allerta in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, scuole chiuse nel Bellunese, ma poi nel corso di questa puntata, di solito alla fine del venerdì, abbiamo il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo per le previsioni del fine settimana e dei prossimi giorni. Una notizia di cronaca: ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali Rudy Ghedè, unico condannato per l'omicidio della studentessa Meredith Kercher, l'ultimo passo verso quel fine pena attualmente previsto per i primi mesi del 2022. Per i giudici, infatti, il percorso di reinserimento sociale dell'ivoriano ormai 37enne appare, dicono, in uno stato particolarmente avanzato. Per il momento Ghedè non si sposterà da Viterbo, dove nel carcere Mamma Gialla ha scontato i 16 anni che gli sono stati inflitti col rito abbreviato per il delitto, appunto, della studentessa inglese compiuto a Perugia la notte tra il 1 e il 2 novembre del 2007. Per chiudere, da oggi a Napoli c'è lo stadio Diego Armando Maradona. La giunta del comune di Napoli infatti ha approvato secondo programma la delibera, l'atto è stato firmato all'unanimità, l'impianto di fuorigrotta non si chiama più dunque San Paolo ma stadio Diego Armando Maradona, e ne parleremo, tornerà per parlarne, ce l'aveva annunciato qualche giorno fa l'assessore allo sport di Napoli Borriello. In attesa dei vari ospiti che arriveranno tra pochissimo, la viabilità è per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al 349-238-6666, dove vedo già diverse vostre domande al portavoce del funzionario di polizia che arriverà tra pochissimo. Mi raccomando, siate sintetici, in queste domande vedo proprio delle robe bibliche. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, le più importanti dall'Italia e dall'estero, ve le racconto nella sintesi della giornata e alcune di queste poi le approfondisco come sempre con gli ospiti a partire da ora. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Roberto Giordano sempre con voi. E, allora, ieri abbiamo parlato piuttosto ampiamente del nuovo DPCM che è stato illustrato da Conte proprio ieri sera in conferenza stampa. Ne abbiamo parlato con il costituzionalista Celotto, con la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, però chiaro, è fresco fresco e ancora diversi dubbi restano. Il nostro paese si sta lentamente decolorando, ovvero sia, vedete che il rosso intenso comincia a trasformarsi progressivamente in arancione. E questo riflette in qualche modo il fatto che un po' in maniera, come vedete, omogenea un po' in tutti i paesi europei l'epidemia sta cominciando lentamente a decrescere. Quindi l'Italia che si decolora, lo avete sentito all'inizio, no? Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro dice un po' come altri paesi dell'Unione Europea, però chiaramente siamo sempre completamente immersi nell'epidemia di coronavirus, lo ha detto anche al suo fianco oggi in conferenza stampa il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza, che ha detto l'incidenza è ancora elevata, quindi è necessario continuare a tenere comportamenti prudenti. E a proposito dei colori, il ministro della Salute Speranza firmerà adesso, bisogna capire se l'ha già firmato, vedo gli aggiornamenti, dovrebbe avere già firmato sulla base della riunione di cabina di regia di oggi varie ordinanze, e quindi ci sono alcuni passaggi di regione, di colore delle regioni. Allora, passano dalla area arancione all'area gialla, quindi quella a più basso rischio, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, le Marche, la Puglia e l'Umbria. E poi invece queste appunto le regioni che passano dall'arancione al giallo. Invece dalla zona rossa alla zona arancione passano la Campania, la Toscana, la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. Mentre l'Abruzzo è l'unica regione a rimanere rossa, e rimangono poi le misure restrittive che sono tuttora vigenti per Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. In ogni caso, avete sentito all'inizio, vi ho reso conto dei dati aggiornati ad oggi dell'andamento del coronavirus in Italia. I nuovi casi sono 24.099, i morti sono sempre un numero molto alto, 814. E in base a tutti questi dati e appunto il monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ieri Conte quindi ha varato questo nuovo DPCM. Sentiamo un passaggio. Sono in arrivo le festività natalizie. Se affrontassimo con le misure proprie delle aree gialle questo periodo, sarebbe pressoché inevitabile una nuova impennata della curva di contagio. È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Le limitiamo al periodo al 21 dicembre e al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è infatti ancora lunga. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda. E sentiamo anche il passaggio, uno dei passaggi più indigesti, soprattutto per le regioni del nord. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra, anche per raggiungere le seconde case. Nei giorni 25 dicembre, Natale, Santo Stefano, 26 dicembre, 1 gennaio, sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro. E allora su questo saluto e do il bentornato al dottor Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Buonasera Laquaniti e bentornato. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Allora, sono in rivolta soprattutto le regioni del nord, con il presidente per esempio della Lombardia Fontana che dice questo fatto che fino al 20 ci si può spostare, poi dal 21 al 6 dove ci si trova, non ci si può più spostare, dice produrrà una fuga come c'era stata per esempio a marzo, quando è stato l'annuncio che probabilmente la Lombardia sarebbe diventata zona rossa. Zaia dice, il presidente del Veneto, speriamo che il governo ci possa ripensare, ci sia un ravvedimento anche dell'ultimo primo momento, per dare più libertà nei giorni, insomma, cruciali delle feste, e comunque, insomma, c'è un certo malcontento, dicevo prima, anche all'interno della maggioranza. Ieri 25 senatori del PD hanno protestato in questo senso, poi c'è anche Italia Viva che non è sulle posizioni di Conte, però insomma, le misure per il momento sono queste. Allora, quindi niente spostamenti, adesso sta arrivando le domande, quindi la prego solo, dottor Laquaniti, di essere sintetico nelle risposte. Allora, quali sono le eccezioni per gli spostamenti? L'eccezione per gli spostamenti sono sempre quelle solite, diciamo, ormai quelle ben conosciute da tutti: il lavoro, la salute e lo stato di necessità. Per stato di necessità lo stesso Presidente del Consiglio ha fatto l'esempio che può essere forse più diffuso, cioè quello di aiutare soggetti che per disabilità o per impossibilità ad essere autosufficienti necessitano di aiuto. Stavo guardando un'altra cosa, dottor Laquaniti, no, perché pensavo che fra tutte le domande che arrivano, una delle questioni più controverse è quella che cosa si intende per domicilio, perché il domicilio mi pare rientri un po' nelle eccezioni, no? Cioè si può rientrare presso la prossima. Allora, sì, esatto, perché anche questo probabilmente avremo anche delle circolari interpretative al riguardo. Il nuovo DPCM introduce non solo il concetto di residenza e di domicilio. La residenza è il centro dei nostri interessi, è quello dove, posso dire, arrivano sostanzialmente tutti gli atti giudiziari. Il domicilio è il luogo dove effettivamente si vive, motivo per il quale spesso residenza e domicilio coincidono, fatto salvo i casi particolari dove per magari esigenze professionali, penso alla mia categoria di poliziotti, si mantiene la residenza dove c'è il centro dei propri interessi e il domicilio si sposta a secondo delle esigenze di servizio. E poi c'è nella norma quella che è il concetto di abitazione, cioè un luogo dove noi comunque viviamo, quindi qualcosa di estremamente simile al domicilio, e questo, diciamo, probabilmente è stato fatto per coprire quelle situazioni particolari dove per esigenze legate magari allo studio, a movimenti estemporanei dovuti magari sempre a motivi di lavoro, ci si possa trovare al di fuori di quella che è la nostra residenza o del nostro domicilio abituale. È chiaro che in questi casi la possibilità che noi abbiamo del riscontro nascono dal fatto che esista comunque, perché c'è sempre, posso dire, l'obbligo di dichiarare l'ospitalità, questa è una vecchia norma, per cui lì la verifica verrà fatta attraverso i contratti di locazione o di messa in disponibilità di determinati appartamenti o alloggi. Dicevo della rivolta di alcune regioni, mentre ieri per esempio c'era il sindaco Nardella che riportava poi la voce della gran parte dei sindaci che si sono riuniti ieri, che invece a confronto delle regioni chiedevano, erano diciamo soddisfatti della linea di rigore, perché diceva: noi siamo amministratori che siamo sul territorio e la nostra esperienza è quotidiana della necessità di controllo, di tenere la situazione di contenimento, appunto le redini della situazione, mentre magari i presidenti di regione sono un pochino più lontani dalla popolazione e dal territorio. Ma per quanto riguarda invece Zaia, per esempio, presidente del Veneto, protestava sulla questione dei paesini, no? Perché se uno si trova in una città e lì deve rimanere fermo, comunque ha un più spazio vitale per muoversi, mentre chi è in un paesino, leggevo anche storie di chi sta in paesini, per esempio Mortarone mi pare vicino Lecco, sono 29 abitanti, un altro un paesino di 88 persone quasi tutte anziane, no? Quindi come si comporteranno le forze dell'ordine in queste situazioni? Le forze dell'ordine credo che si comporteranno come si sono comportate finora. Anche noi siamo forti dell'esperienza maturata nella scorsa primavera, da marzo in poi, cioè questo vuol dire interpretare correttamente la norma, perché non possono essere le forze dell'ordine a decidere se una norma è giusta o sbagliata. La norma impone che venga osservata, chiaramente non siamo delle macchine, chiaramente le forze dell'ordine che se ne dica non sono composte da persone ottuse, quindi cercheremo nei limiti delle nostre capacità di interpretare correttamente la norma, di intercettare le esigenze delle persone, così come ha detto anche il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, fermo restando che quando si interpreta una norma bisogna sempre capire qual è la finalità di questa norma. La finalità di questa norma fondamentalmente, mi sembra di poter dire con tranquillità, è quella del mantenimento di quella che è la bolla sociale, che è un concetto che anche in tanti altri paesi europei e extraeuropei è l'unica misura finora individuata per cercare di ridurre i contagi. Vuol dire trovare il modo di far sì che le persone abbiano un numero limitato allo stretto indispensabile, allo stretto necessario, di quei contatti extrafamiliari, cioè di quelle persone che non appartengono strettamente al nostro nucleo familiare. Poi è chiaro, ci sono dei paesini che sono, come posso dire, assurdi all'onore delle cronache, perché magari si trovano proprio in posizione di confine. Non ho motivo di ritenere che troveranno operatori delle forze dell'ordine pronti a intercettare il minimo sconfinamento rigidissimi su questo, vive sulle linee di confine. Chiaro, dottor Laguaniti, abbiamo ancora pochissimo tempo e stanno arrivando un sacco di domande, però c'era ancora una domanda che le volevo fare io e poi passiamo però proprio a raffica alle altre domande, e la questione dell'estero, no? Ieri dicevo alla sottosegretaria alla salute Sandra Zampa che trovavo comunque nel DPCM piuttosto paradossale il fatto che appunto non ci si possa muovere dal 21 fino al 6, neanche appunto da un comune all'altro, da pochi chilometri, ma si possa andare all'estero perché è prevista la quarantena per chi torna dall'estero. In quel caso non c'è possibilità di controllo, ma proprio sinteticamente, dottor Laguaniti. Sinteticamente, a me mi scapperebbe di dire che, senza scomodare Kant, il fatto che possa essere per alcuni casi difficile fare delle verifiche non toglie il fatto che non ci dobbiamo attenere a determinate norme. I rapporti con l'estero sono, in questo senso invito anche gli ascoltatori che avessero bisogno a monitorare sempre il sito di Viaggiare Sicuri, che è curato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, perché posso dire, gli aspetti relativi ai paesi esteri varia moltissimo a secondo del tipo di paese dove ci dobbiamo muovere, e anche questi paesi, un po' come le nostre regioni, cambiano di colore o cambiano, per meglio dire, di livello di rischio a secondo della situazione. Credo che, come ha risposto ieri purtroppo la sottosegretaria Sandra Zampa, ci sia poca soluzione, nel senso che diceva non possiamo chiudere unilateralmente le frontiere. Però andiamo alle domande perché abbiamo ancora pochissimo tempo. C'è per esempio Giuseppe da Verbania che dice: buonasera, nei giorni 25 e 26 dicembre non ci si può spostare fra comune. Se io mi spostassi nella mia regione, il Piemonte, in un altro comune con il camper prima di tale date, sarei in regola con la legge del DPCM? Molto brevemente, se no non facciamo le altre domande. Allora, bisognerà innanzitutto vedere se in quella data com'è colorata la sua regione. Tradotto, solo se è gialla lui si potrà muovere prima del 21 all'interno dei confini regionali, e lo potrà fare fino a sotto Natale praticamente. Il problema è se la regione dovesse essere arancione o rossa, ricordo che lì il problema è che non si può più lasciare il comune. Poi invece questo ascoltatore dice che è gravemente disabile, che la persona che lo aiuta al bollino disabile sul suo cruscotto vorrebbe tenermi a cena con sé la sera del 24 stesso, nello stesso comune. La regione è il Molise, devo essere riaccompagnato a casa entro le 22? Visto che c'è coprifuoco. Allora, lì anche qui si tratta di interpretare intelligentemente lo stato di necessità. Qui, se parliamo di una persona che non è autosufficiente e ha bisogno per provvedere alle proprie esigenze di avere aiuto, sicuramente lo può avere, e nel momento in cui la necessità di aiuto dovesse terminare oltre le 22 e il soggetto dovesse necessariamente far rientro alla propria residenza o domicilio, questo è sicuramente uno stato di necessità e un giustificato motivo. Attenzione, mi permetto di fare solo questa sottolineatura. Quando noi facciamo l'autocertificazione, perché spesso dicono vabbè, tanto io scrivo quello che voglio, ricordo che una recente sentenza ha affermato che dichiarare il falso costituisce reato, il reato è il falso biologico commesso dal privato, quindi che tutte le situazioni di necessità siano veritiere, perché se no si passa da una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro a un reato penale con conseguenze sicuramente più gravi. Così ha ricordato anche le sanzioni. Paolo, anche se sono arrivate tantissime domande, non ce la facciamo perché dobbiamo chiudere, dice: mio figlio, dice Paolo, lavora a Ginevra e vorrebbe venire il 21 per ripartire il 2 gennaio, ma se arrivando fa subito un tampone, dov'è il problema, dice Paolo? Cioè poter rientrare il 2. Allora, io non sono un medico, però ormai il concetto che abbiamo chiesto, se poteva sostituirsi alla quarantena il tampone, e che la positività al tampone può avvenire anche a distanza di diversi giorni, anzi solitamente avviene a distanza di diversi giorni rispetto al momento, al primo momento di contagio. Ecco perché nella maggior parte dei casi l'esecuzione del test e del tampone, anche quello molecolare, non consente di uscire al principio della quarantena, fermo restando, e questo per questo richiamavo quel sito, se il tempo di permanenza in Italia è particolarmente ridotto. Siccome ci sono una serie di eccezioni, bisogna andare a vedere in quale tipologia si rientra. Le questioni sono complesse, so che lei vuole essere precisissimo fiscale, non abbiamo più tempo, ma sono arrivate tantissime domande, vedremo se ci sarà tempo nei prossimi giorni. Grazie dottor Girolamo Laquaniti, buona continuazione. Grazie e buon fine lei, settimana. Tutti, grazie. E ci sentiamo tra pochissimo, sì, piccola pausa. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Torno a parlare di Diego Armando Maradona, morto lo scorso 20 novembre, perché subito quel giorno il sindaco di Napoli De Magistris propose di dedicargli lo stadio di Napoli, il San Paolo. Su questo era stato ospite il giorno dopo, proprio qui a Effetto Notte, l'assessore allo sport di Napoli, Ciro Borriello, che ora ritorna per darci una buona notizia. Assessore, buonasera. Buonasera a voi tutti, buonasera. Allora è stata approvata. Come? Prego. All'estamento c'è un po' di vento. Ah, c'è un po' di vento, vabbè, la sento bene, nonostante tutto. Ce l'abbiamo fatta. Oggi abbiamo approvato in giunta, la commissione toponomastica all'unanimità ha deciso, insomma, di dare il nome allo stadio a Diego Armando Maradona. Quindi un grande successo secondo me di popolo, perché la gente di Napoli, sono i tifosi, tantissimi tifosi nel mondo, anche non soltanto tifosi del Napoli, che hanno chiesto questa cosa e l'abbiamo fatta in un tempo rapidissimo, e quindi ora aspettiamo soltanto l'ok del prefetto, perché deve sapere che c'è una norma che dice che devono passare 10 anni per intitolare un luogo pubblico a una persona scomparsa. C'è una deroga che il prefetto può concedere per fatti straordinari, e Maradona è un fatto straordinario. Quindi fatto straordinario, notizia straordinaria, e davvero un cambio in tempi rapidissimi e straordinari del nome dello stadio San Paolo, che da oggi quindi è lo stadio Diego Armando Maradona, giusto Borriello? Diego Armando Maradona. Diciamo dalla settimana prossima, quando ci sarà una deroga del prefetto di Napoli, avremo quindi la correttezza degli atti e quindi avremo lo stadio Diego Maradona. Grazie assessore Ciro Borriello, e un grazie, saluto anche a Napoli. Grazie. Grazie assessore. Buona serata. Insomma, quindi questa è una bella notizia, almeno per chi ha amato, per chi ama Maradona, mentre non è certamente edificante la vicenda dell'esame di italiano del calciatore Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, vero Giovanni Capuano, considerando i vari particolari che stanno emergendo dall'inchiesta? Eccomi, ciao Roberta. Sì, particolari che erano in parte già noti, insomma, dalla fine di settembre, quando erano state pubblicate anche alcune intercettazioni, alcuni stralci, alcuni documenti. Oggi è arrivata l'ordinanza del GIP del Tribunale di Perugia, Piercarlo Frabotta. GIP che ha prima di tutto sospeso per 8 mesi la rettrice dell'Ateneo, il direttore generale e i membri una parte dei membri della commissione che sostenne l'esame lo scorso 17 settembre, e poi questa è la parte che ovviamente ha fatto più rumore a livello sportivo e comunicativo, ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile dell'area tecnica della Juventus, Fabio Paratici, e 2 legali del club, ovvero gli avvocati Chiappero e Turco. Nell'ordinanza si parla di farsa, di pantomima, di favoritismo scandaloso, di sfrontatezza inaudita, si ricostruisce quello che secondo i magistrati è stata l'attività dei membri dell'Ateneo su spinta della Juventus per cercare di far sì che l'esame fosse blindato, viene proprio usato questo termine, un esame farsa. Suarez si doveva presentare conoscendo già domande e risposte, anche perché praticamente non parlava una parola di italiano, e l'esame gli serviva per poter poi cercare di accelerare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana, senza la quale non avrebbe potuto essere giocatore della Juventus, ingaggiato dalla Juventus. Gli artifici che vengono messi in campo sono diversi. Secondo i magistrati, ad esempio, Fabio Paratici, amico d'infanzia della ministra De Micheli, la contatta per chiedere di attivarsi per accelerare tutto il procedimento e ottiene dalla ministra il contatto con il capogabinetto del Viminale. Poi ci sono altri contatti tra i legali del club e alcuni esponenti delle istituzioni. Da parte invece dell'Ateneo viene descritta ad esempio tutta la manovra che viene messa in campo sfruttando anche le misure di sicurezza Covid per far sì che Suarez possa solo, fare quindi l'esame da solo, esatto, quindi senza testimoni scomodi. La Juventus ribadisce la correttezza del comportamento del proprio tesserato. Ovviamente questa è una vicenda che non finisce oggi, che potrà avere anche dei riscontri dal punto di vista della giustizia sportiva, anche se credo si parli al massimo di qualche mese di squalifica e di un'ammenda per il club. Però è evidentemente una vicenda che sta facendo molto discutere e sta facendo discutere non solo in Italia. Grazie Giovanni Capuano. Ciao caro Giovanni. Ciao, adesso c'è il reportage del venerdì, ci sentiamo subito dopo. Radio 24 Reportage. Vaccini e volontari. Le armi anti-Covid nei laboratori di Oxford. Di Giorgia Scaturro. Ma voi vi fareste contagiare apposta con il Covid-19 per osservare come si sviluppa l'infezione e testare l'efficacia di un vaccino? Lei sì. Si chiama Agnese Lanzetti, geologa e ricercatrice al Natural History Museum di Londra. Agnese è una dei 199 volontari italiani reclutati dall'organizzazione americana One Day Suna, insieme ad un battaglione di quasi 40.000 cavie internazionali pronti a partecipare a questo tipo di sperimentazione chiamata Human Challenge, la sfida umana. L'abbiamo intervistata. In un test del genere fondamentalmente viene somministrato un vaccino, non so ancora quale, e poi si viene anche esposti al virus, la minima quantità virale, diciamo che è dimostrato che possa creare un'infezione, tutto questo in un ambiente controllato ovviamente, e poi si viene monitorati H24 per controllare se si sviluppa l'infezione. Io personalmente ritengo di poter essere una buona candidata perché sono giovane, non ho alcun particolare problema di salute. Un challenge trial ha dei rischi superiori a un normale trial per il vaccino, ecco, perché vieni anche esposto al virus. È giusto che a questi tipi di trial non partecipino tutti, ma solo persone che è difficile che abbiano delle serie ripercussioni. C'è qualcuno invece, nella tua famiglia o tra i tuoi amici, qualcuno che ti sta chiedendo ma non lo fare? Diciamo che sì, ci sono delle persone che dicono magari è bello che tu lo voglia fare, no? Ma speriamo allo stesso tempo che tu non lo faccia. Ed è un atteggiamento comprensibile. Questi tipi di sperimentazioni così non se ne è praticamente mai parlato fino a oggi. Tu sei giovane, hai 31 anni. Questo Human Challenge verrà fatto su tutti i volontari giovani dai 18 ai 30 anni. Che cosa può voler dire? In una situazione in cui sono gli anziani che sono maggiormente a rischio e sono più vulnerabili. Il Challenge Trial serve semplicemente per accelerare il processo, più che di validità della sicurezza del vaccino, accelerare il processo di praticamente se il vaccino effettivamente funziona nel prevenire la malattia. Sarebbe proprio non etico assolutamente darlo a una persona che potrebbe morire. How are we doing, David? Nel 2006, nel testare un farmaco della Tegenero in un ospedale di Londra, sei volontari svilupparono terribili reazioni avverse, come sentite in questo documentario di Raw TV. That was horrible. L'incidente dei cosiddetti uomini elefante, per fortuna poi guariti, ha irrigidito i parametri della Commissione Etica Britannica che autorizza le sperimentazioni cliniche sui farmaci. La prima sfida umana al mondo sul Covid dovrebbe essere lanciata a gennaio dall'Imperial College di Londra. In attesa del via libera dell'autorità etica britannica, abbiamo chiesto un parere al professor Dominic Wilkinson, direttore del Centro di Etica della Medicina dell'Università di Oxford. Con le sperimentazioni umane si sono studiate molte malattie gravi e potenzialmente mortali, come per esempio la malaria. Come si possono conciliare sicurezza ed emergenza? Primo, occorre che le sperimentazioni vengano compiute minimizzando i rischi e poi occorre che chi partecipa sia consapevole dei rischi. Ovviamente ci sono esitazioni nell'infettare deliberatamente i volontari con il virus, ma loro così come tutti noi, il rischio di contrarre il coronavirus lo corriamo ogni giorno quando usciamo di casa. Dobbiamo fare le sperimentazioni umane per capire prima quali sono i vaccini migliori e poi questi dovranno essere studiati su pazienti con diversi livelli di rischio, seguendo le procedure tradizionali. Nata ad aprile con la missione di accelerare lo sviluppo dei vaccini anche solo di un giorno, l'organizzazione americana chiamata appunto One Day Soon recluta volontari per questo tipo di studi e fa in modo che questi possano dare il proprio consenso informato. A parlarci di questa sorta di sindacato per la salvaguardia dei diritti delle cavie umane è il loro direttore della comunicazione, A.B. Rohrig, che a 21 anni ha già donato un rene. Il nostro obiettivo è che le sfide umane si compiano in modo etico e abbiano il più vasto impatto possibile. Questo vuol dire fare in modo che i volontari capiscano i rischi per la loro salute, ma anche che vengano accolti in strutture accoglienti, con un buon Wi-Fi, perché questa sperimentazione è impegnativa e comporta stare in isolamento per circa un mese. Ci impegniamo molto anche a fare in modo che i volontari abbiano un'assistenza sanitaria di lungo periodo, perché, come sappiamo, possono emergere complicazioni anche in soggetti asintomatici nel lungo periodo. I volontari dovrebbero ricevere un compenso di circa 4.000 sterline. Il governo britannico ha investito 33 milioni di sterline in questo studio che Imperial College sta conducendo insieme alla compagnia farmaceutica hVIVO. Ma la missione vaccini, come ci spiega AB, sarà molto lunga. The fight against COVID is going to extend well into 2021 and 2022 because scientists will. La lotta contro il COVID si estenderà al 2021 e 2022. Perché gli scienziati dovranno continuare a migliorare sempre di più l'efficacia e la sicurezza dei vaccini. Ne occorrono tanti per soddisfare la domanda globale. È molto importante trovare vaccini di seconda e terza generazione per raggiungere l'immunità di gregge, soprattutto se in molti scelgono di non vaccinarsi. Occorre che i vaccini siano molto efficaci. Pfizer's vaccine has been approved by regulators for use in the UK. Sensational news. The UK has become the first country in the world. Tra il clamore mediatico internazionale, la Gran Bretagna ha dato l'annuncio che il mondo intero aspettava. È stato il primo paese ad avere finalmente approvato un vaccino, quello di Pfizer BioNTech, efficace al 95%. Following an extremely and scientifically rigorous review. L'autorizzazione del primo vaccino, arrivato in corsa dopo 10 mesi, non è stata data a discapito di rigorosi controlli, spiega June Rain, a capo dell'Agenzia Britannica sui Farmaci MHRA. Il pubblico può avere assolutamente fiducia nella sicurezza, efficacia e qualità del vaccino di Pfizer-BioNTech che abbiamo approvato. Si aspettano ora quelli di Moderna e dell'Università di Oxford, sviluppato da AstraZeneca in partnership anche con la Advent di Pomezia, che è più economico, più facile da conservare e punta ad una capacità di 3 miliardi di dosi nel mondo il prossimo anno. We will accumulate more data in the current trials. Raccoglieremo altri dati nella sperimentazione in corso e questi ci daranno ancora più fiducia nei risultati già annunciati, dice il professor Andrew Pollard, direttore dell'Oxford Vaccine Group. Quello che serve è che le persone facciano il vaccino e si proteggano per aiutare a mettere fine alla pandemia. And to be protected to help end the pandemic. Un britannico su 5 non è disposto a farsi vaccinare, mentre nel nostro paese i contrari al vaccino anti-Covid salgono a circa un italiano su 3. A cercare di rassicurarci è il professor Robin Shattuck, a capo del team che sta sviluppando il vaccino ad Imperial College. I vaccini sono una delle strategie più sicure al mondo. Abbiamo una solida evidenza scientifica. Se foste una persona costretta ad autoisolarsi, se foste soggetti vulnerabili o anziani, vi preoccuperebbe farvi vaccinare? Sospetto di no. Ecco l'appello del primo ministro britannico, Boris Johnson, secondo cui la posizione degli anti-vaccino è senza senso. Anti-vax is total nonsense. You should definitely get a vaccine. L'appello finale lo lasciamo ad Agnese. Le epidemie o le pandemie non si possono evitare, ma ci si può preparare. Quindi spero solo che i nostri politici, il nostro Stato impari da questa cosa e sia più pronto ad affrontare le emergenze sanitarie, ma tutti i tipi di emergenze che non nulla prima che avvengano. Sia tempo di sapere che tempo farà con il nostro Paolo Corazzoni Trevi Meteo, caro Paolo. Buonasera, buonasera Roberta, ma come immagini? Lo so, non ti sei sempre così notizie. Solare, lui usa la voce, no? Perché uno si illude che vuole dare buone notizie, invece, prego, dica. Un disastro totale, sarà un weekend davvero di maltempo, non proprio in tutta Italia, perché domani ad esempio saranno solo le regioni settentrionali e quelle tirreniche a vedere piogge abbondanti, però davvero abbondanti. E lì il problema, con tantissima neve sulle Alpi, ma più di un metro, addirittura a 1000 metri di quota, quindi insomma situazioni che potrebbero essere anche di disagio, diciamo così. Invece domani se la cava al meglio dell'Atlantico del Sud, poi sì un po' di variabilità, ma addirittura il clima anche relativamente mite perché soffre lo scirocco. Però domenica arrivano le piogge anche al centro sud, quindi insomma chi prima chi dopo, sto weekend la nostra dose d'acqua la prendiamo tutti. E ripeto, il problema è che potremmo avere precipitazioni abbondanti, quindi i fiumi si riempiranno bene. Insomma, prestiamo attenzione, siamo attenti, perché temo che avremo situazioni anche delicate in alcune zone. Ma secondo te, Paolo, viste le restrizioni, visto il tempo, ma se andassimo tutti in letargo, dici che... Ma guarda, ci sarebbe, anche perché non è mica finita qua, anche se la prossima non sarà certo un granché, quindi forse ne varrebbe davvero la pena sul tema. Vabbè, comunque da tradizione milanese, ma credo che non sia solo di Milano, il weekend si fa l'albero, si fa il presepe, quindi insomma un po' di cose ce le cerchiamo e le faremo, cosa dobbiamo fare, giusto? In solitudine, ecco, poi nel caso letargo con una marmotta, con un orso, con un ghiro, va bene. Grazie Paolo Corazzon, grazie comunque, buon tempo a te comunque sia. Ciao, caro Paolo. Ciao. Torno rata come la folgore ad aggiornarvi brevemente alle 22.